10 minuti più tardi, al caffè Giubbe Rosse. Ah, ecco, siamo al caffè Giubbe Rosse. È un locale molto famoso a Firenze. It looks quite old. Sì, è antico. Che profumo di caffè! Prendiamo un espresso? Sì, un espresso per me. Io prendo anche una pasta. Ho fame. Mangia la pasta ora? Sì, ma non pasta come primo piatto, spaghetti o penne. Ecco, quella è una pasta. It looks like a croissant. Si chiama brioche. Una brioche anche per lei? Per me? No, grazie. Solo un caffè. Bene. Signore? Due caffè e una brioche, per favore. Questa va bene? È con la crema? Sì, è con la crema. Oh, allora no. Preferisco quella con la marmellata. Grazie. Vuole assaggiare? Well, yes, just a little piece. Grazie. Very nice. Sì, è squisita. Squisita, indeed. Ecco i caffè. Grazie. Quanto zucchero? Sugar, how much? Oh, only one, please. Tre cucchiaini per me. Mi piace molto dolce. Strong. Sì, forte, ma squisito.